Essere e benessere di Nicoletta Carbone. C'è chi la sceglie e chi la subisce, chi la vive come un riparo, un angolo per sé, e invece chi la rifugge come il peggiore degli incubi, chi la va a cercare e chi fa di tutto per poterla abbandonare. Buongiorno intanto da Nicoletta. So che le frasi che ho appena detto possono adattarsi a molte differenti situazioni della vita, ma quella di oggi è una zona, spesso una zona d'ombra, che può anche rivelare spunti di luce incredibili. Sto parlando della solitudine. Che rapporto avete voi con questa parola? Vi spaventa, vi attrae, la desiderate, la rifuggite, la subite? 800 24 00 24, questo è il nostro numero verde per intervenire in trasmissione. Potete anche naturalmente mandarci messaggi al 349 238 6666 e scriverci sul nostro profilo Facebook, dove sono già arrivati alcuni commenti che voglio leggervi intanto per scaldarci un po', fare un po' di stretching. Andrea, ad esempio, mi scrive: un esempio di solitudine stupenda. I miei viaggi solitari con lo scooter mi rendono felice e libero. Maria Antonietta: una solitaria e lunga corsa in bici mi fa sentire libera e spensierata, ma nella mia solitudine ho come ingrediente base la riflessione. Baby Birba aggiunge: dipende dallo stato d'animo, può aiutarti a conoscerti meglio o può ferirti a morte. Solitudine, aspettiamo i vostri racconti, le vostre impressioni. Raccontateci di quali ingredienti è fatta la vostra solitudine, scriveteci messaggi e soprattutto chiamateci. Intanto saluto Alberto Pellai, che è qui in studio con me. Ciao Alberto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Faremo un bel percorso insieme. Sì, oggi credo proprio che sarà una puntata piena di sorpresa, piena di luce, oltre che di ombre. In linea con noi abbiamo un ospite, sono molto felice che ci onori della sua presenza. È una delle scrittrici più amate e, lasciatemelo dire, una delle nostre preferite qui ad Essere Benessere. In linea abbiamo Susanna Tamaro, buongiorno. Buongiorno. Autrice di Per Sempre, Giunti Editore, appena pubblicato, già un grande successo. Susanna, è proprio il suo romanzo che ci ha spinto a scegliere il tema di oggi. Tra l'altro preannuncio ai miei ascoltatori che tra coloro che ci chiameranno e scriveranno riceveranno una copia del romanzo Per Sempre, autografato dall'autrice. Il romanzo, Susanna, racconta una solitudine piena di dolore, ma anche piena di risorse e di possibilità. Che solitudine è quella di Matteo, che è il protagonista del suo Per Sempre? Ma è la solitudine di una persona che è stata molto ferita dalla vita e che a un certo punto capisce che per riuscire a rimettersi in piedi, perlomeno a tentare di rimettersi in piedi, deve fare un lungo viaggio dentro se stesso. E il viaggio dentro se stesso, insomma, la condizione ottimale per farlo è quella della solitudine, naturalmente. Vogliamo ascoltare un breve estratto dove che ci attiva un po', no? Ci accende pensieri, come dice Alberto. Nei primi anni quassù ho vissuto in assoluta solitudine. Se qualche escursionista sembrava intenzionato a fermarsi, gli facevo capire che non era il caso. Lo spazio fisico c'era, un letto a castello nello stanzino dietro la cucina. Quello che invece non c'era era lo spazio nel mio cuore. Ero convalescente, le mie ferite erano appena rimarginate. Sarebbe bastato un movimento brusco per riaprirle. Per questo avevo bisogno di stare zitto, fermo, di rimanere accucciato nella tana per riprendere le forze. La natura come cornice, direi, della solitudine di Matteo. Questo romanzo infatti incrocia il percorso della solitudine con il linguaggio della natura, del tempo, delle stagioni. Lei fa una vita molto ritirata, vive, no, immersa nella natura. Quanto c'è di autobiografico nella descrizione di Matteo e della sua scelta di vita? Ma sicuramente tutte le descrizioni relative alla natura, anche alla coltivazione delle piante, eccetera, sono derivano dalla mia vita. Non potrei scrivere quelle cose se non le avessi in prima persona, se non le provassi ogni giorno, se non sapessi osservare quello che succede davanti a me. E naturalmente Matteo, non l'abbiamo detto, ma si ritira a vivere in un eremo, in montagna, in qualche parte dell'Appennino, dunque una zona estremamente solitaria, mentre io vivo in un paese di 1800 abitanti e dunque è possibile che la mia vita, sì, è appartata, è lontana dalla città, ma è piena di rapporti umani, perché nei paesi forse siano più rapporti umani che in città in qualche modo, no? E la solitudine, nel senso che io ho bisogno, ma questo fin da bambina, di molte ore di solitudine al giorno, però sono anche una persona estremamente socievole, dunque è una solitudine seconda di socialità. perché spesso ci si confonde, si pensa che una persona solitaria, una persona scorbutica, una persona non so, così un po' selvatica, no? E invece si può essere solitarissimi e socievolissimi, secondo me, anzi appunto la socialità si nutre della solitudine e viceversa, la solitudine si nutre della socialità profonda, non della socialità superficiale. Abbiamo Fede che ci chiama da Milano all'800240024. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Io volevo semplicemente provare a darvi la mia esperienza ed è questa. Io credo sia necessario usare la vita vivendola con esperienze. Le esperienze poi ci servono per essere rielaborate nei momenti di non dico solitudine, ma in cui si comincia a riflettere e a scegliere o anche a vivere stagioni in cui non si è insieme agli altri. Ma la solitudine è solo una stagione, una parte, una componente dell'esistenza. Non è un ghetto, non è un luogo dove qualcuno ti caccia. È una parte di te che ti serve o per rielaborare i tuoi percorsi o per rigenerarti, ma comunque è un momento, una stagione. Grazie Fede. Alberto. Ma la solitudine è come uno spazio per rielaborare i tuoi percorsi. Questa sarebbe un'esigenza per ciascuno di noi nelle svolte della vita, ma anche nella quotidianità. Eppure, se ci pensa bene, Fede, questa è proprio una cosa da cui molti di noi rifuggono proprio a gambe levate. Abbiamo nella frenesia, nel riempirci la vita in ogni singolo momento di rumori e di azioni, probabilmente un inconsapevole desiderio di rifugiare da quella solitudine che permette la rielaborazione, proprio come dice lei. E tra l'altro, secondo me, la solitudine di Matteo è una solitudine davvero straordinaria, quella raccontata nel romanzo di Susanna Tamaro, perché è come se la solitudine avesse scelto Matteo dopo un passaggio molto terribile, molto traumatico della sua vita, e lui avesse avuto bisogno di lunghissimi tempi, di anni davvero di solitudine per capire cosa quella solitudine gli stava raccontando e poi per diventarne davvero padrone. La mia percezione è che nel romanzo c'è un uomo perso nella solitudine e che poi grazie alla solitudine riesce a ritrovarsi, ma davvero un percorso prima di disorientamento e poi invece di riorientamento alla scoperta davvero di chi è lui stesso. Magari chiediamo proprio all'autrice se è questo il percorso della solitudine che fa il suo protagonista. Certamente, è un percorso di perdita totale e poi di ritrovamento totale. Io credo che spesso la solitudine, appunto, uno può trovarsi in momento di solitudine perché è un momento di difficoltà, un momento di dolore, di malattia nella vita, di perdita, no? E quella è una solitudine dolorosa, una solitudine che rischia di diventare sterile. Ma nel momento in cui io ho la forza di affrontarla e di guardare in faccia i problemi e i semi che ci sono nella solitudine e di farli germogliare, quella solitudine che incomincia magari come negativa, come sterile, può diventare proprio la zattera della mia salvezza, può diventare ricca di vita, ricca di relazione, ricca di cose, insomma, di apertura. La solitudine che crea una straordinaria invece capacità di comunicare, di vivere intensamente. Penso ad esempio che chi sta molto solo, pensa ai contemplativi, i mistici, non sono solo, in realtà hanno tutto l'universo intorno a loro, no? Dunque c'è una solitudine in cui sei ricco di relazioni profondissime e poi c'è anche una solitudine purtroppo che è povera e diventa sempre più povera. Cioè, se non accetti il fatto di guardare in faccia i tuoi problemi, come diceva prima Fede, di affrontarli, di ristrutturarti, allora diventa una situazione in cui recrimini, in cui ripiangi e allora diventa una sterilità sempre più sterile. Ci scrive Marzio da Firenze: la parola solitudine ha valenza negativa, saperla gestire segna una vittoria sulla vita. Non siamo mai soli perché comunque siamo con noi stessi. Io penso che siamo poco educati ad accettare la valenza positiva della solitudine fin da piccoli, no? Cerchiamo, ci vengono imposte delle relazioni, il nostro successo tante volte, la nostra autostima si nutre del numero di amici, no? che abbiamo, penso anche a Facebook, in qualche modo dobbiamo essere sempre in contatto, abbiamo un po' paura a rimanere soli, anche quella, a cercare quella solitudine, non parlo di una solitudine subita. Susanna, che dici? Ma io assolutamente, sono anni che faccio una battaglia per concedere ai bambini la solitudine e il silenzio, perché secondo me un bambino che è deprivato dei momenti di solitudine, anche di noia, che sono importantissimi, e di silenzio, è un bambino che non riuscirà mai a costituirsi profondamente, perché solo nella noia degli infiniti pomeriggi che una volta esistevano quando ero piccola, no? Prima di tutti gli intrattenimenti, un bambino può interrogarsi e può farsi delle domande sul mondo e su se stesso, perché in quel momento in cui la persona si fonda, se il bambino è intrattenuto costantemente da tutti i mezzi che abbiamo ora, dalla confusione, dai corsi che deve fare, corre di qua, corre di là, sarà sempre un adulto disorientato, perché non ha avuto il modo di mettere le sue fondamenta da solo, con le sue forze. Dunque io sono una grande amica della battaglia per la solitudine dei bambini, per la noia dei bambini, perché solo la noia produce poi le idee, le riflessioni, una visione del mondo. Alberto, a proposito di noia, di solitudine dei bambini, spesso i genitori sono preoccupati se il bambino è solitario. Certo, e perché lo incitano ad uscire, a farsi degli amici. Ma io credo che è noi normale. Siamo molto preoccupati dalle emozioni pesanti, quelle che affaticano il cuore, in parte la tristezza, in parte la frustrazione, in parte a volte anche il dolore, e credo che queste sono proprio un po' le emozioni che spesso ci fanno entrare nella solitudine, e sono emozioni necessarie, noi non possiamo non sentirle, non possiamo non viverle, sono emozioni di crisi e quindi poi anche di crescita. Se Matteo, il protagonista del romanzo Per Sempre, non entrasse in questo dolore spaventoso, profondo, davvero da incubo, e non decidesse comunque di abitarlo, quasi inconsapevolmente, sapendo che dentro a quel dolore c'è un percorso che lo porterà a un traguardo che non gli è chiaro. Ecco, se lui non lasciasse lo spazio a quel dolore di abitarlo concretamente nel tempo e nel luogo della solitudine, probabilmente poi non potrebbe diventare l'uomo che intuiamo diventerà alla fine del romanzo. Per cui, secondo me, la solitudine è una cosa da cui sempre più spesso noi vogliamo fuggire, ma perché ci spaventa moltissimo il dolore che non vogliamo vedere, non vogliamo sentire, ma in alcuni passaggi della vita è necessario ed è un dolore di crescita anche per i nostri figli. 800 24 00 24, chiamateci. Ricordo che tre di voi potranno ricevere a casa il libro autografato da Susanna Tamaro. Intanto abbiamo Danilo che ci chiama da Bergamo. Buongiorno. Buongiorno, complimenti soprattutto per la trasmissione, io vi seguo spesso quando sono in macchina e rientro dal mio lavoro. Grazie. E oggi è un giorno di questi. E volevo proprio dire che la solitudine molte volte diventa luogo dell'attesa e dell'incontro. Frequentando i grandi mistici, soprattutto anche quelli occidentali, scopro che la solitudine per loro era il luogo in cui tutto il mondo riceveva una partecipazione spirituale, ed è un'esperienza che anch'io faccio nel mio piccolo, nella mia solitudine, a volte ricercata, a volte anche detestata, perché non è facile rimanere soli con se stessi. San Benedetto, il padre del monachesimo in Occidente, impara a vivere da solo con se stesso, ed è la sfida più grande che l'uomo nei nostri tempi deve essere in grado di affrontare, cosa che non riesce facilmente a fare perché Facebook, internet, radio, televisione, ma non solo negativamente per carità, anche positivamente, interferiscono con questa ricerca di sé nella solitudine, che poi può anche diventare ricerca di Dio, perché è eccellente, certo, conoscenza di sé semplicemente. Marco ci chiama invece da Modena, buongiorno. Buongiorno a voi. Quello che volevo dire è questo, un piccolo punto di vista: la solitudine è una scelta naturale fra una cernita di tanti amici, e probabilmente quella che forse delude meno, diciamo così. Non voglio essere pessimista, però sai, non è facile trovare un amico, soprattutto il detto dice un amico un tesoro. Io invece trovo veramente un tesoro la solitudine, perché non sempre mi aspetto le risposte che lei mi vuole dare, però forse anche è bello così, perché a volte mi confronto. Questo era il mio pensiero. Ma Marco, la vita l'ha bastonata duramente nelle sue relazioni con gli amici? Diciamo che sono un po' rimasto deluso, però a volte pensando dico, forse ho deluso anch'io amici. Certo. E di conseguenza loro dico, non che la solitudine non mi dia delusioni, però mi mette alla prova, mi mette a confronto e io mi ci trovo molto bene, ecco. Poi naturale, come dicevate prima, si sta bene anche in compagnia, non sono un orso, non sono una persona non socievole, però diciamo che il mio rifugio principale è la solitudine. Poi purtroppo sono legato a un mestiere che sono tutto il giorno sulla strada e di conseguenza ho fatto di necessità virtù. Grazie Marco per essere intervenuto. Susanna, noi stiamo parlando di una solitudine come quella che tu hai descritto, che è una sorta di situazione che ci permette di rigenerarci, perché tu dici io vivo in un paese, amo la solitudine, ma sono anche molto ricca di relazioni. C'è anche invece un altro tipo di solitudine, delle persone che in qualche modo si sentono tradite, non capite, non comprese, che hanno difficoltà proprio a relazionarsi con gli altri, che sono state bruciate dalla vita. Io mi fa notare Nicola che ci manda un messaggio e ci dice che queste sono banalità. In effetti può sembrare molto banale, Susanna, parlare di solitudine. Io chiedo aiuto a te, che sei una scrittrice, che la solitudine, insomma, la vivi in maniera costruttiva. Si può essere poco popolari, no? A parlare di solitudine, si può anche essere tacciati di buonismo, perché no? Dire è bello, è rigenerarsi. Grande, ecco. È un grande anticonformismo parlare di solitudine, ecco, adesso, no? Quindi, è andare controcorrente. Vero? E quindi no, prendevo spunto giustamente dalla critica di Nicola, perché insomma, diceva queste sono banalità. In effetti, secondo me. La banalità è banale. La vita è straordinariamente banale, questo è il problema, no? E non dobbiamo avere paura della banalità, perché la vita è una grandissima, una volta che uno è arrivato alla contemplazione, diciamo, della vita nel suo complesso, è estremamente semplice, estremamente banale nel suo funzionamento. E abbiamo delle scelte interiori da fare, abbiamo da comprendere certi meccanismi e poi la vita, io forse chi non vive, chi non lavora in campagna, no, non si rende conto di questa enorme semplicità e complessità, ma comunque la semplicità guida la vita e dunque non bisogna avere paura della banalità, perché non bisogna avere paura dell'amore, non bisogna avere paura dei sentimenti profondi, questi non sono banali, questi sono la cosa più importante dell'essere umano e della qualità della vita di un essere umano. Dunque non c'è banalità nel sentimento, c'è banalità nella parodia del sentimento, cioè nel sentimentalismo, perché come tutti gli ismi è qualcosa di non profondo, è qualcosa di ideologico. Dunque se ci uniamo all'ideologico, sentimentalismo è una cosa orrenda, il solitudinismo è una cosa orrenda, la solitudine è una cosa bellissima e il sentimento è una cosa straordinaria. Dunque non dobbiamo avere paura di questi termini, insomma, ma dobbiamo guardarli nella loro complessità, totalità e nella straordinaria e profonda semplicità. Susanna, prima di salutarti, resta con noi, perché io vorrei mandare un ultimo estratto del tuo libro, sì, dove si vede una solitudine in movimento. Sì. Rimasto solo, ho iniziato a correre verso il bosco. Stavo per esplodere e avevo bisogno di protezione. Mi sono fermato davanti al primo grande albero che ho incontrato. Ho posato lì la fronte e sono scoppiato in singhiozzi. Su quel tronco ho pianto tutte le lacrime della mia vita. A quel faggio ho regalato tutti gli abbracci che non avevo mai dato. Quella corteccia argentata ha accolto tutto il mio dolore. Alla fine, esausto, mi sono accasciato sulle sue radici come un agnello ai piedi della madre, scivolando in un sonno rapido e profondo. Al risveglio mi sentivo leggero, straordinariamente leggero. Fuori dal bosco brillava la luce di mezzogiorno. Trovo che ci sia proprio poesia in questa immagine. Io leggendola mi sono sentita in qualche modo ricaricata, toccata. Io ci tenevo molto a mettere della poesia in questo libro, perché penso che siamo in tempi estremamente poveri di poesia, appunto che hanno paura della banalità, dell'emozione e ritengo la poesia fosse una cosa futile, inutile, invece la poesia è qualcosa di profondamente misterioso legato alla nostra anima, ma qualcosa che ci dà una ricchezza, un'emozione, un qualcosa che rimane per sempre dentro di noi, no? Dunque io sono molto contenta di dire che ho trovato della poesia, perché ho lavorato molto intensamente per riuscire a fare questa cosa, e devo dire, come diceva l'ascoltatore, due ascoltatori fa mi sembra, io per riuscire a fare questo libro, perché volevo fare un libro molto, molto forte, molto intenso, mi sono ritirata nella grotta dove si ritirò San Benedetto agli inizi della sua, diciamo, carriera. Dunque l'accostamento con San Benedetto fatto prima è molto giusto, perché l'Italia centrale è piena di eremi dell'epoca benedettina e posteriore, in cui spesso ci sono ancora degli eremiti che hanno ancora questo, sono come dire, impregnati da questo sentimento, da questa visione di totalità mistica, ed è molto bello stare, insomma, a caricarsi anche creativamente in questi posti. Per me è stato molto importante ritirarmi in questo ermo per poi riuscire a creare questo libro. E tutto questo lavoro si sente ed entra dentro. Io posso dire che questo è un romanzo che mi ha proprio catturato, e ho letto le ultime 40 pagine sulla metropolitana con le lacrime agli occhi, per cui posso solo consigliarlo come un romanzo che fa fare un percorso al suo lettore. Grazie a Susanna Tamaro per essere stata con noi. Grazie a voi. Grazie. Buon anche proseguimento. Grazie, buona giornata. Grazie, altrettanto. Grazie, buona giornata a lei. E noi invece continuiamo, facciamo una breve interruzione per i mercati e il meteo con Pietro Lacorte in regia alla parte tecnica e Laura Vanossi in redazione, che ci seguono. Noi ritorniamo subito dopo insieme con un'altra ospite, sempre per esplorare la solitudine, un percorso, ci auguriamo, caro Nicola, non banale ma ricco di spunti, tra luci e ombra. Voilà. Essere e benessere. Scivoli, scivoli, ghiaccio sulle cose. La tele dice che le strade sono pericolose, ma l'unico pericolo che sento veramente è quello di non riuscire più a sentire niente. Il profumo dei fiori, l'odore della città, il suono dei motorini, il sapore della pizza, le lacrime di una mamma, le idee di uno studente, gli incroci possibili in una piazza. Di stare con le antenne alzate verso il cielo. Io lo so che non sono solo. Io quale so solitudine conoscete? Di quali ingredienti è fatta la vostra solitudine, cercata o subita? Scriveteci, mandateci dei messaggi al 349-238-6666, chiamateci all'800-24-0024. Tre di voi riceveranno una copia del romanzo di Susanna Tamaro, Per sempre, una copia autografata. Abbiamo Siro, buongiorno, da Bologna. Buongiorno, grazie tanto per avermi ospitato. Stavo parlando appunto dell'educazione alla solitudine da bambini. Cioè, esiste un'iniziazione alla solitudine, esiste il fatto anche una punizione di solitudine, nel senso che se un bambino, io ho 58 anni, adesso però le cose mi saltano fuori a quest'età, la mia infanzia mi salta fuori a quest'età, perché dopo tanti anni di rivolte, di ribellioni, infatti io sono andato avanti di ribellioni perché appunto ho vissuto una solitudine pesata. Dunque, io cominciamo così, io all'età di 10 anni io vivevo, sono stato praticamente mandato di tutto dai genitori perché secondo me non mi accettavano molto bene in famiglia. E per questo motivo io soffrivo di abbandono, di nostalgia e di altri sentimenti un po' negativi. Sì. Di conseguenza uno diventa anche un po' irrequieto, a quell'età lì si è irrequieti e anche un po' disobbedienti di fronte alle regole. E mi sono trovato, scusate il fiatone perché sono in salita, sto vivendo la mia solitudine nei boschi. Dove sta andando? Sto arrampicandomi su delle montagne col mio cane. Ah, che vede, a proposito di solitudine. Io vivo la mia solitudine in questo modo, facendo trekking e rilievi nelle montagne. Senta Siro, quindi sì. Un'infanzia che è stata segnata dal collegio, e quindi un bambino che in qualche modo, Alberto, protestava, no? Faceva sentire il suo disagio, era un bambino un po' indisciplinato, e quindi la solitudine per Siro è stata veramente un po' una ferita, giusto Siro? Sì, ma la cosa brutta è che non è che ti aiutano, cioè, e poi non c'è solidarietà da parte degli altri 250 convituali, certo. Nel senso che quelli che sono i tuoi amici non ti aiutano. Alberto? Ma direi una buona fotografia di molte solitudini anche attuali, cioè soli, circondati da un mondo di persone sole, per cui effettivamente la solitudine ha bisogno, soprattutto quando sei bambino, di essere protetta e tenuta in contatto. Cioè, se noi mandiamo un bambino in castigo nell'angolo, devi stare là da solo in solitudine, è chiaro che non lo possiamo abbandonare lì. La cosa importante è andare ogni 5 minuti a dirgli: guarda che io sono qui e finito il castigo ti aspetto, perché quella deve essere una solitudine che lo aiuta a trovarsi e non che lo fa perdere ulteriormente. Grazie, buongiorno dalla provincia di Brescia, benvenuta. Buongiorno, vi telefono dalla Lago di Garda, no, davanti a me è un panorama splendido. Io ho molte analogie con Ciro, perché anch'io fin da piccola ho avuto la mamma sempre ammalata di depressione e ogni volta che veniva ricoverata io lo sentivo come un tradimento, un abbandono. Però io mi sono abituata a subirlo con molta serenità, mi mettevo nell'angolo più nascosto della casa e lì giocavo magari col gatto da sola, cioè ero una bambina estremamente introversa. Adesso crescendo sono ancora più amante della solitudine, perché la solitudine non ti tradisce, mentre molte amicizie ti tradiscono. La solitudine, se la vivi bene, è quasi una ricchezza. Vivo anch'io in una zona dove, grazie a Dio, una vecchia proprietà della mia famiglia, al bosco, stavo facendo la boscaiola poco fa. Abbraccia anche lei un albero per noi, grazie, buona giornata. Ne ho anche troppi di alberi. Ne abbracci uno per me. Grazie, buona giornata. 800 24 00 24. Molti ascoltatori mi invitano a parlare della solitudine affettiva. Più di un ascoltatore mi scrive: è terribile sentirsi soli quando si è in due. Alberto, la solitudine all'interno della coppia non è un sentimento, un'emozione, la solitudine che proviamo solo quando siamo da soli, ma forse proprio la sperimentiamo quando siamo con l'altro. E quindi è proprio, non è una condizione sociale, cioè non avere una persona vicina attorno, ma proprio una condizione dell'anima che a volte rischia di trasformarsi in vera e propria patologia e perciò può diventare tristezza cronica e poi depressione. E in questo senso può esserci molto di aiuto la prossima ospite di Essere Benessere. Ha scritto un libro che si chiama Uscire dalla solitudine, Dietro le nuvole, l'amicizia e l'amore, edito da Urra, è una psicologa e una psicoterapeuta. Olga Chiaia, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ma lei ci aiuterà a capire come uscire da quella solitudine che ci fa pesare il cuore, ci stringe, ci opprime? Beh, prima o poi capita a tutti di incontrarla la solitudine, sia che uno la scelga sia che uno la fugga, e quindi è importante capire come viverla nel modo migliore, perché se è vissuta come un fallimento, la rabbia verso noi stessi e verso gli altri la rende molto dolorosa. Bene. Se è vissuta come una fase, invece diventa, come abbiamo detto, un momento di reset, di recupero di se stessi e per star meglio, ma molto spesso invece uno si vergogna, la vive come una sconfitta e quindi se la prende o con se stesso o con gli altri. Ma da dove si inizia per provare a vedere e stare nella solitudine in modo diverso? Come provare a viverla in modo positivo? Innanzitutto entrando in contatto con se stessi, perché spesso le persone sole tendono a non voler stare neanche con se stessi, quindi accendono la televisione, accendono la radio e evitano di ascoltare i propri stessi pensieri. E invece il primo passo è cominciare a sentire questa voce che chiamiamo dialogo interno, se ci dice delle cose amorevoli o se invece è spiacevole convivere con se stessi. Cioè, quando siamo soli con noi stessi, con chi siamo? Con una persona amica o con una persona ipercritica e fastidiosa? Allora io vi girerei proprio questa domanda che ci fa Olga Chiaia. Ecco, nel momento di solitudine in cui ci stacchiamo dagli altri, dagli affanni quotidiani, che voce sentiamo? Amica o nemica? 800 24 00 24 è il momento di andare a sentire le informazioni sul traffico, ma prima, come sempre, voglio ricordarvi il nostro appuntamento, il nostro laboratorio del benessere, dove ogni giorno gli esperti ci aiutano a prendere consapevolezza della nostra salute e del nostro benessere. Andate sul sito di Radio 24 e cliccate su Daily Lab. Essere benessere. Siamo tornati insieme, 800 24 00 24, per provare a vedere la solitudine che, come diceva la dottoressa Olga Chiaia, insomma, in momenti di solitudine, periodi di solitudine voluta o subita, capitano a tutti, per provare a vederla in un altro modo, per provare ad ascoltare, dottoressa Chiaia, quella voce che ci dice delle cose che spesso noi abbiamo paura anche solo di sentire, ancora prima di capire che cosa ci vuole dire. Sì, anche perché spesso ci dice noi che non andiamo bene, ci colpevolizza di questa solitudine, dice che non siamo abbastanza belli o abbastanza intelligenti, insomma, come se fosse colpa nostra. Oppure accusa gli altri, c'è tutta una rabbia per cui gli altri non ci capiscono, eccetera. Questo tipo di pensieri interni allontana le relazioni, di cui invece abbiamo un enorme bisogno. Il bisogno di relazione è come la fame e la sete, non possiamo farne a meno. La quantità necessaria dipende da ciascuno di noi, a qualcuno basta pochissimo, per altri è necessario molto, però non possiamo dimenticare che senza relazioni moriamo, ci ammaliamo. Hanno scoperto addirittura che ci viene più freddo, più fame di cose dolci e grasse, che il cuore soffre, eccetera. Quindi dobbiamo tener conto che dobbiamo avere delle relazioni e che avere delle relazioni è sempre un rischio. Nel senso che, diceva Sartre, l'inferno sono gli altri, sono la fonte della maggiore gioia, ma anche una fonte di paura, di pericolo di rifiuto. E questo rischio va affrontato, però, è imprescindibile. Francesco, buongiorno da Padova, 800 24 00 24. Dopo Francesco, Alberto, abbiamo già selezionato due degli ascoltatori, quindi datevi da fare per il terzo libro. Francesco, a lei. Buongiorno Nicoletta, buongiorno ai suoi ospiti. Beh, io chiamavo appunto per il discorso della solitudine, che ci si può sentire soli anche a casa, in famiglia, con i figli, con la moglie. Sì. Diciamo che a me è successo dopo la nascita dei figli, mi sono sentito più solo di sempre, insomma. Ho fatto anch'io molti anni di collegio e fra ragazzi si gioca tutto il giorno, poi quando alla sera ci si ritira prima di addormentarsi ci si sente in solitudine. Sì. E la stessa cosa l'ho provata quando sono nati i figli, perché sembra che tra i ragazzi e mia moglie ci sia una complicità, una cosa bellissima. Quando ci sono io, quella complicità là non c'è più, non... sembra più fredda la famiglia, sembra la serata. Francesco, più... ma lei immagino ne avrà parlato con sua moglie, con i suoi figli. Beh, sì, ne ho parlato, però lei dice che è una cosa che a dire su, insomma, non è così grave, non è così. I figli assorbono e perciò hanno la precedenza in assoluta, insomma. Ecco, sentirsi solo, messo un po' da parte. Io vorrei un aiuto dalla dottoressa Olga Chiaia e da Alberto Pellai. La situazione di Francesco si può ritrovare nell'ambiente lavorativo come in famiglia, cioè sentirsi in qualche modo un po', non scartato, ma insomma che non si fa parte di quella comunità. Alberto. Sì, io penso che anche avere... questa è una forma di solitudine. Assolutamente, e forse la cosa che ci può aiutare, forse sul lavoro significa esporsi troppo, ma in famiglia uno può proprio raccontare come si sente, può anche dire ho bisogno di aiuto, chiedo aiuto, che è molto diverso dal dire invece voi siete così o voi state facendo con la mamma queste cose, con me queste altre, cioè proprio raccontare quello che stai provando, perché questo in automatico può diventare un ponte che rende possibile trasformare un'emozione negativa in positiva. Ma sentiamo anche la collega. Dottoressa Olga Chiaia? Ma la percezione di essere esclusi è molto dolorosa. Il problema è che a volte si comincia a sentirsi esclusi e ci si autoesclude. Sì. Cioè si collabora a questa esclusione, forse anche in modo non consapevole, perché ci si chiude in se stessi, ci si sente feriti, allora non ci si propone nemmeno. Mentre bisognerebbe avere il coraggio, appunto, sottolineo la parola coraggio perché un po' ce ne vuole, di riproporsi, di verificare se questa sensazione di esclusione è realistica oppure fa parte dei nostri fantasmi, delle nostre paure, e quindi proporre qualcosa di piacevole, di condivisibile ai familiari e ai colleghi. Io sono d'accordo con Alberto Pellai nel dire più che da attribuire una colpa all'altro, raccontare quello che ci ferisce, il nostro disagio. Costanzo, buongiorno a lei da Roma. Alberto, intanto tienti pronto con l'assegnazione dei libri. Ah, buongiorno. Buongiorno Costanzo, sta bene? Bene, grazie. grazie, complimenti alla vostra trasmissione. Io vorrei dire questo, riallacciandomi un po' a quello che ha detto l'ascoltatore precedente. I problemi di questo disagio, della solitudine, soprattutto nella famiglia, io lo noto nel mio lavoro. In pratica molte volte le famiglie si sfaldano perché i coniugi non hanno dei progetti condivisi, non hanno rispetto dei propri ruoli, credono che tutte le soluzioni dei problemi siano o addebitabili all'uno o all'altro, oppure debbano risolversi sempre su base scientifica. C'è un abbandono del buonsenso, sì, della relazione pratica, e tutti questi problemi poi oltretutto si riverberano sui figli. Ci sono dei modelli comportamentali proposti che certo facilitano e inducono alla solitudine in presenza di problemi, la fuga verso una soluzione che spesso rappresenta un aggravamento del danno, perché proprio cercando al di fuori della coppia, al di fuori del gruppo, al di fuori della formazione, poi logicamente si alimenta in fondo questa solitudine. Certo. Ecco, volevo soltanto dire questo, un piccolissimo contributo, perché chi si trova in difficoltà spesso deve fare degli sforzi maggiori degli altri per tenere unito quel gruppo che ha voluto, che ha contribuito a formare. Certo. Invece poi quando nascono dei bambini la responsabilità è maggiore, ed uno deve essere disposto anche ad abdicare a tante cose e per la salvaguardia della loro integrità. Grazie per il suo contributo. Gli ultimi secondi per segnalare gli ascoltatori che riceveranno a casa il libro Per Sempre di Susanna Tamara, autografato dall'autrice. Alberto, abbiamo scelto le telefonate di Siro di Bologna, Grazia di Brescia e Francesco di Padova. E per oggi è tutto. Io ringrazio la dottoressa Olga Chiaia per essere stata con noi, autrice di Uscire dalla solitudine, Urra Edizioni, Alberto Pellai, e voi che siete intervenuti. Grazie, vi aspetto domani. Buona giornata da Nicoletta. Essere e benessere.